Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 24. Le conversazioni e la solitudine. Ricercare le conversazioni e fuggire le conversazioni sono due estremi ugualmente riprovevoli in una devozione civile quale è quella che vado proponendoti. La fuga dalla conversazione tradisce un senso di superiorità, di disprezzo nei confronti del prossimo. Per contro, la ricerca della conversazione tradisce tendenza all'ozio, alla professione di perditempo. Bisogna amare il prossimo come se stessi, e per dimostrargli amore non bisogna evitare di incontrarlo. Ma per dimostrare che vogliamo bene anche a noi stessi, occorre rimanere con noi quando ne abbiamo l'opportunità. E questa l'abbiamo quando siamo soli. Dice San Bernardo: pensa a te stesso e poi agli altri. Dunque, se nulla ti impone di fare visite o di riceverne a casa tua, rimani in te stessa e conversa con il tuo cuore. Ma se ti capita di trovarti in compagnia, o per qualche giusto motivo devi andare a cercarla tu stessa, vacci con Dio, Filotea, e guarda il prossimo con cuore contento e occhio felice. Vengono chiamate cattive conversazioni quelle che si tengono con intenzione perversa, o anche se quelli che vi partecipano sono viziosi, scriteriati, dissoluti. Da quelle bisogna stare lontano, come fanno le api che si tengono lontane dai gruppi di tafani o di calabroni. Allo stesso modo che quelli quali sono stati morsi da cani arrabbiati, sudano, hanno il fiato e la saliva pericolose, soprattutto per i bambini e le persone di costituzione delicata, quei viziosi depravati costituiscono sempre un pericolo, un rischio per coloro che li frequentano. Soprattutto se si tratta di persone dalla devozione ancora tenera, delicata. Ci sono conversazioni che hanno il solo scopo di divertire. Servono per distrarsi un po' dalle occupazioni serie. A quelle è chiaro che non dobbiamo consacrarci. Lasciamo loro solo il tempo libero destinato a riposarci. Altre conversazioni hanno perfine la buona educazione, come ad esempio lo scambio di visite, certe riunioni che si fanno per onorare il prossimo. E direi che per quelle non bisogna farsi scrupolo nel disertarle. Però nemmeno essere troppo incivili, dimostrando per esse disprezzo. Facciamo con moderazione il nostro dovere, evitando in ugual misura di essere rozzi, leggeri. Rimangono le conversazioni utili, quali quelle delle persone devote e virtuose. Filotea, ritieni una grande grazia incontrarne spesso. La vigna piantata tra gli olivi dà un'uva grassa che sa di oliva. Un'anima che si trovi a frequentare spesso gente di virtù partecipa necessariamente delle loro qualità. I fuchi, da soli, non fanno il miele. Ma in compagnia delle api qualcosa riescono a fare. La conversazione con anime devote ci aiuta molto nell'esercizio della devozione. In ogni conversazione occorre dare sempre la preferenza alla spontaneità, alla semplicità, alla dolcezza, alla misura. C'è gente che si comporta e si muove con tanto studio che tutti ne sono annoiati. Uno che non volesse mai spostarsi senza cadenzare il passo, che non volesse parlare senza cantare, sarebbe davvero un peso per tutti. Non è diverso per quelli che hanno sempre un contegno studiato, agiscono solo con mosse calcolate e rendono impossibile la conversazione. La gente di questo tipo è ammalata di presunzione. In via ordinaria, la nostra conversazione deve essere dominata da una gioia moderata. San Romualdo e Sant'Antonio vengono molto lodati perché, nonostante tutte le austerità, avevano sempre il volto e le parole illuminate di gioia, di allegria, di civiltà. E con l'Apostolo, io ti ripeto, sta allegra con chi è contento. Sii sempre contenta, ma il nostro Signore, e la tua moderazione sia nota a tutti gli uomini. Per gioire, il nostro Signore, è necessario che il motivo della tua gioia non solo sia lecito, ma anche onesto. Dico questo perché ci sono cose lecite che poi risultano disoneste. Per esempio, per mettere in evidenza la tua modestia, sta attenta a non diventare insolente, il che è sempre da riprovare. Fare lo sgambetto ad uno, mettere in ombra un altro, pungere un terzo, fare del male ad un menomato, sono scherni e soddisfazioni stupide, insolenti e anche cattive. Ma oltre alla solitudine mentale, nella quale ti è sempre possibile rifugiarti anche in mezzo alle più rumorose compagnie, e di cui abbiamo già parlato, devi amare anche la solitudine locale, la solitudine reale. Non voglio spedirti nel deserto, come Santa Maria Egiziaca, San Paolo, Sant'Antonio, Arsenio e tutti gli altri padri eremiti. Ma penso che ogni tanto ti farebbe bene rimanere sola in camera tua, nel tuo giardino o altrove, dove ti sia possibile raccogliere il tuo spirito nel tuo cuore, ritemprare la tua anima con buoni propositi, con santi pensieri, o con qualche buona lettura, come faceva quel santo vescovo di Nazianzo, che parlando di se stesso diceva: «Passeggiavo con me stesso al tramonto del sole e trascorrevo il tempo in riva al mare». Ho questa abitudine per riposarmi, per liberarmi un po' dalle preoccupazioni quotidiane. Abbiamo anche l'esempio di Sant'Ambrogio, riferito da Sant'Agostino. Ci racconta che spesso entrava in camera sua, non chiudeva mai la porta a nessuno, e lo guardava leggere. Attendeva un po' e poi se ne andava per non disturbarlo e senza dire parola, pensando che il tempo che rimaneva a quel grande pastore per riposare, per distendere il proprio spirito, dopo il carico di una giornata di lavoro, non doveva essergli tolto. Anche il nostro Signore agì allo stesso modo con gli Apostoli, dopo che gli avevano raccontato le loro fatiche nella predicazione e nel ministero. Disse loro: «Venite in disparte, riposatevi un po'». Capitolo 25. Il buon gusto e il senso della misura nel vestire. San Paolo vuole che le donne devote, vale anche per gli uomini, vestano abiti decenti, ornandosi con modestia e misura. Il decoro degli abiti e degli altri ornamenti si deduce dalla stoffa, dal taglio e dalla pulizia. Per quello che riguarda la pulizia deve essere costante e generale. Per quanto c'è possibile, non lasciamo sugli abiti tracce di sporcizia, segni di trascuratezza. La pulizia esteriore indica, in una certa misura, l'onestà interiore. Dio stesso esige la pulizia esteriore in coloro che si avvicinano al suo altare e hanno la principale responsabilità della devozione. Per quello che riguarda la stoffa e il taglio degli abiti, il decoro va collegato a diverse circostanze: di tempo, di età, di rango, di ambiente, di situazioni. Abitualmente ci si veste meglio nei giorni di festa, tenuto conto anche della solennità che ricorre. In tempo di penitenza, come in Quaresima, si veste in tono molto dimesso. Se vai a nozze, ti vesti con l'abito adatto alle nozze. Se vai ad un funerale, con l'abito adatto ad un funerale. La donna sposata, quando è col marito, deve ornarsi per piacere a lui. Se lo facesse quando lui è lontano, sarebbe lecito chiedersi agli occhi di chi voglia essere piacente. Alle ragazze sono permessi più fronzoli, perché hanno il giusto diritto di voler piacere a molti, anche se deve essere solo per conquistare uno in vista del matrimonio. Niente di male che anche le vedove che cercano marito si ornino con una certa evidenza, purché non esibiscano leggerezze. Sono già madri di famiglia, hanno passato i dispiaceri della vedovanza. Si ha il diritto di giudicarle persone di spirito maturo e formato. Le vere vedove, che si sentono tali, non solo nel corpo, ma anche nel cuore, devono rinunciare a tutti gli ornamenti. Per esse c'è l'umiltà, la modestia, la devozione. Se vogliono dare amore agli uomini, non sono vedove vere. E se non ne vogliono dare, perché vanno in giro con le insegne? Chi non vuole più cercare i clienti, deve togliere l'insegna. Ci si diverte sempre alle spalle delle persone anziane che vogliono fare i belli. Le pazzie si possono permettere solo ai giovani. Tu, Filotea, sii sempre in ordine. Non ci deve essere niente in te che sappia di trasandato, di approssimativo, di raffazzonato. Sarebbe segno di disprezzo per quelli che incontri andare da loro con un abito indecoroso. D'altra parte, evita l'affettazione, la vanità, la ricercatezza, le follie. Finché ti è possibile, rimani semplice e modesta. È il più bello ornamento della bellezza e la miglior copertura in caso che la bellezza non ci fosse. San Pietro chiede in modo particolare alle giovani donne di non portare i capelli esageratamente increspati, arricciati, inanellati, ritorti a modo di serpente. Gli uomini tanto smidollati da perdere tempo in queste civetterie sono additati da tutti come ermafroditi, e le donne vanitose sono considerate arrendevoli in fatto di castità. Se poi sono virtuose, non è che si veda tanto in mezzo a tante scemenze e stupidaggini. Per difendersi dicono che non pensano male, ma io dico, come del resto ho già detto, che al male ci pensa il diavolo. Da parte mia vorrei che il devoto e la devota che seguono i miei consigli fossero quelli vestiti sempre con più gusto nella brigata, ma i meno ricercati, i meno affettati. Come dice il proverbio, vorrei che fossero ornati di grazia, di gentilezza e di dignità. San Luigi lo esprime molto bene. Ci si deve vestire secondo la propria condizione, di modo che i saggi e i buoni non possano dire «ti sei caricato troppo» e i giovani «ti sei tirato troppo giù». Ma in caso che i giovani non fossero soddisfatti del nostro decoro, poco danno, atteniamoci al parere dei saggi. Capitolo 26esimo. Sul parlare, e in primo luogo come si deve parlare di Dio. I miei medici, dall'esame della lingua di un paziente, si fanno un'opinione fondata sul suo stato di salute. Per noi, le informazioni valide sullo stato della nostra anima sono le parole. Dice il Salvatore: «Dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato». Quando proviamo un dolore, subito vi portiamo la mano sopra. Lo stesso fa la lingua sull'amore che proviamo. Per cui, Filotea, se sei molto innamorata di Dio, parlerai spesso di Dio nelle conversazioni familiari con i tuoi domestici, con gli amici, con i vicini. Perché la bocca del giusto mediterà la sapienza e la sua lingua parlerà con giudizio. A somiglianza delle api che con la loro boccuccia trattano solo il miele, la tua lingua sarà sempre profumata del suo Dio, e il tuo più grande piacere sarà quello di sentir fluire dalle tue labbra lodi e benedizioni al suo nome. Proprio come si dice di San Francesco d'Assisi, il quale, dopo che aveva pronunciato il santo nome del Signore, ripassava la lingua sulle labbra per continuare ad assaporare la più grande dolcezza del mondo. Ma quando parli di Dio, ricordati che stai parlando di Dio, ossia che lo devi fare con rispetto e devozione, non prendendo atteggiamenti di sufficienza o il tono di una predica, ma con spirito di dolcezza, di carità, di umiltà, facendo scendere come ben sai e come si dice della sposa nel Cantico dei Cantici, il miele delizioso della devozione e delle cose divine, goccia a goccia, ora nell'orecchio dell'uno, ora nell'orecchio dell'altro. E pregherai Dio nell'intimo della tua anima, che voglia far scendere quella santa rugiada fino al cuore di quelli che ascoltano. Questo è un compito angelico che va condotto con dolcezza e soavità. E bisogna evitare il tono della correzione. Bisogna procedere per modo di ispirazione. Sai bene che la soavità dei modi e l'amabilità nel proporre qualche buon suggerimento compiono meraviglie, hanno la forza di un invito irresistibile per i cuori. Non parlare mai di Dio e di devozione tanto per dire di averlo fatto o per fare due chiacchiere, ma sempre con attenzione e devozione. Questo te lo dico per impedirti di cadere in una sciocca vanità che si riscontra in molti che fanno professione di persone devote. Ad ogni piè sospinto dicono parole sante e piene di fervore, quasi per modo di battute, senza nemmeno pensarci. E dopo averle dette, sono convinti di essere lo specchio delle parole che hanno detto. Invece proprio non lo sono. Capitolo 27. L'onestà nelle parole e il rispetto dovuto alle persone. Dice San Giacomo: se uno non pecca in parole, è un uomo perfetto. Fa scrupolosamente attenzione a non lasciarti sfuggire alcuna parola sconveniente. Anche se non la dici con cattiva intenzione, coloro che lodono possono prenderla in questo senso. Se la parola sconveniente cade in un cuore debole, si estende e si allarga come una goccia d'olio sul lenzuolo. Qualche volta si impadronisce in modo tale del cuore da riempirlo di mille pensieri e tentazioni oscene. Tu sai che il veleno per il corpo entra dalla bocca. Quello per il cuore entra dall'orecchio, e la lingua che lo propina è assassina, anche se il veleno propinato non consegue l'effetto perché ha trovato immunizzati i cuori degli uditori. Se gli altri non sono morti, non è perché mancasse la volontà di uccidere. E nessuno venga a dirmi che non ci pensa. Nostro Signore, che conosce i pensieri, ha detto che la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Se il pensiero non ce lo mettiamo noi, sta pur certa che ce lo mette il diavolo, e anche molto. È il suo segreto, servirsi di cattive parole per trafiggere i cuori di chi gli capita a tiro. Si dice che quelli che mangiano l'erba detta angelica hanno sempre l'alito dolce e gradevole. Coloro che hanno nel cuore l'onestà e la castità, che è una virtù angelica, usano sempre parole educate e pulite. Quanto alle cose indecenti e folli, l'Apostolo non vuole nemmeno che se ne faccia il nome. Ci assicura che niente corrompe i buoni costumi quanto le conversazioni invereconde. Se queste parole indecenti sono dette di nascosto, in modo studiato, sottile, sono ancora più velenose. Infatti, più un dardo è appuntito e più profondamente penetra nel corpo. Così, più una parola cattiva è sottile e più penetra nei nostri cuori. Coloro che pensano di essere gentiluomini perché usano tali parole nelle conversazioni, non hanno idea di cosa sono le conversazioni. Devono essere simili a sciami di api raccolte insieme per ricavare il miele da qualche dolce e virtuoso argomento. Non un mucchio di vespe che si uniscono per succhiare marciume. Se qualche stupido ti dice parole indecenti, fa vedere che le tue orecchie non vogliono udirle. Interessati ad altro. O manifesta la tua ripugnanza in qualche modo. Sarà la tua prudenza a indicarti quello opportuno. Uno dei difetti peggiori dello spirito è quello di essere beffardo. Dio odia molto questo vizio e sappiamo che lo ha punito con castighi esemplari. Nessun vizio è così contrario alla carità e più ancora alla devozione quanto il disprezzo e la derisione del prossimo. La derisione e la beffa non vanno senza disprezzo. È per questo che è un peccato molto grave. E i moralisti hanno ragione di dire che la derisione è il modo peggiore di offendere il prossimo con parole. Le altre offese salvano sempre, in una certa misura, la stima per la persona. Invece la derisione non la risparmia in nulla. Cosa molto diversa sono le battute scherzose tra amici. Si fanno in allegria, in gioia serena. Si tratta addirittura di una virtù. Noi diciamo buona conversazione. È il modo di prendersi un'onesta e amabile ricreazione sulle situazioni buffe cui i difetti degli uomini danno occasione. Bisogna solo stare attenti a non passare dagli scherzi sereni alla derisione. La derisione provoca la riso per mancanza di stima, per disprezzo del prossimo. Invece la battuta allegra, la burla scherzosa, provocano alla riso per la trovata, gli accostamenti imprevedibili fatti in confidenza o in una schiettezza amichevole, sempre con molta cortesia di linguaggio. San Luigi, quando le persone bigotte volevano parlargli di argomenti impegnativi dopo il pranzo, era solito dire: «Ah no, ora non è tempo di dotte discussioni, ora è tempo di allegria e di scherzi, ciascuno dica quello che si sente». E in tal modo andava incontro alla nobiltà che lo circondava per ricevere gentilezze da sua maestà. Cara Filotea, l'importante è passare il tempo di ricreazione in modo tale da conservare per devozione il pensiero della santa eternità. Thank you.